chiede perché che c'è che chi c'è non dico tacchini. Sarà sa montare segno, sarà sa anin datang mambelai ramah. Jajaki jalan di kotaku ini Serasa mentari senyum Serasa angin datang membelai